Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo ancora, devo dire che tutta la settimana è una settimana intrisa di dati economici che riguardano anche e soprattutto l'Italia. Abbiamo iniziato lunedì con la fiducia di consumatori e imprese, ieri ci siamo occupati della fiducia a livello europeo che riguardava anche l'Italia ai massimi dal 2007, l'altro ieri e anche ieri della revisione del PIL operata da Moody's, anch'essa in rialzo come tutti gli altri operatori, tutti gli altri osservatori. Devo dire che oggi c'è un altro dato che non riguarda l'economia ma va nella scia di un miglioramento del clima economico, come spiegava, lo dico per evitare subito le polemiche, come spiegava anche ieri il professor Daveri, nostro ospite, un conto è parlare di un miglioramento, un conto è dire che si è tornati a fatto 100 a livello del 2008, che siamo arrivati al 2008, non è così, ci sono ancora su 10 punti percentuali di PIL persi, ne abbiamo recuperati circa 6, quindi siamo ancora sotto, ma che ci sia un recupero in atto è altrettanto innegabile se uno vuole essere obiettivo. Se poi vuole essere solo partigiano e tifare per quella o quell'altra parte politica, vede o tutto o il bicchiere tutto pieno o tutto vuoto. Non è così, la realtà è un po' più articolata, c'è un miglioramento del clima economico in tutta l'area euro, ne beneficia anche l'Italia che ha una crescita comunque più bassa della media europea, ma una crescita rivista al rialzo e anche in maniera significativa dallo 0,8% previsto all'1,3% adesso stimato da tutti, ripeto, gli osservatori internazionali. Oggi l'Istat ci fornisce altri due dati importanti. Uno riguarda il tasso di inflazione, ad agosto è risalito all'1,2%, torna al livello di giugno, ma attenzione, non è ancora un'inflazione che possa denotare una dinamica dei consumi più viva. Perché? Perché in larga parte è dovuta a quella che noi chiamiamo inflazione, che si chiama in gergo inflazione importata. Sono i prezzi dei carburanti e dei trasporti ad avere contribuito soprattutto all'aumento dell'inflazione. Come lo si nota questo e lo si verifica? Guardando come sta andando l'inflazione cosiddetta core, cioè dei beni a maggior frequenza d'acquisto, il cosiddetto carrello della spesa. Ebbene, lì i prezzi sono ancora molto bassi e quasi fermi, più 0,6%, tra l'altro era dallo 0,8 a luglio. I prezzi degli alimentari, incluse le bevande alcoliche, hanno fatto appena più 0,1%. Allora, nessuno, anche qui prevengo alcune obiezioni che arrivano, festeggia, nessuno vuole che crescano i prezzi degli alimentari se non crescono i salari, ma l'inflazione serve anche per monitorare quello che è l'andamento dei consumi e quindi la propensione al consumo. Se tu vedi che i prezzi sono ancora fermi nei generi alimentari, nei generi del maggior consumo, vuol dire che la dinamica dei consumi non è ancora ripartita. Questo lo dico perché poi sappiamo che la Banca Centrale Europea vuole un'inflazione intorno al 2%, la Germania ieri ha diffuso un dato all'1,8%, ma non è l'inflazione tedesca quella che conta, è l'inflazione media dell'area euro quella che va a guardare Mario Draghi, e l'Italia da questo punto di vista è ancora in una forma di non inflazione o di bassissima inflazione, e questo è un dato. L'altro invece riguarda il tasso di disoccupazione, che è salito da un lato all'11,3% a luglio, e anche qui dobbiamo entrare nella solita specifica. La disoccupazione misura chi non lavora tra tutti quelli che stanno cercando un lavoro. L'occupazione invece misura chi lavora, fatto 100, tutta la platea dei potenziali lavoratori. Qual è la differenza? Che persone che non cercano, che pur essendo potenziali lavoratori non cercano un lavoro, o perché sono sfiduciati o perché ritengono che non ci siano offerte accettabili, o perché hanno deciso di ritirarsi a vita privata, ci sono anche famiglie che fanno un calcolo tra lo stipendio che può ottenere, spesso riguarda la componente femminile della famiglia, la moglie, e quanto costerebbe gestire i figli a casa. Uno fa anche il ragionamento: forse mi conviene stare a casa piuttosto che andare a lavorare, con certe offerte salariali ovviamente. E quindi l'occupazione ti dà la percentuale di chi lavora ha fatto 100, chi potrebbe lavorare. Lo dico perché è chiaro che il dato di oggi, che molte agenzie hanno ripreso, riguarda l'occupazione a record dal 2008. E tra l'altro il calo, c'è un forte calo negli inattivi, cioè quelli che pur potendo lavorare non vogliono lavorare, ripeto, per i motivi che abbiamo già detto. Gli occupati sono tornati al livello del 2008, 23 milioni di occupati. Il fatto che gli occupati siano aumentati fa sì che più persone si mettano a cercare lavoro, quindi se non lo trovano entrano tra i disoccupati, ed è per questo che tu vedi aumentare l'occupazione, gli occupati al livello più alto dal 2008, ma vedi anche crescere la disoccupazione. Il confronto si ha poi con gli inattivi sono scesi al 34,4% ed è il livello più basso come persone inattive, ripeto, quelle che potrebbero lavorare ma per vari motivi decidono di non lavorare, è il livello più basso da quando l'Istat misura le serie storiche dal gennaio del 2004. Poi uno può aggiungere che è un'occupazione fatta di salari bassi, di contratti non stabili, tutto questo è sicuramente vero, però guardiamo anche tra un contratto non stabile e nessun contratto, lo dico spesso, è meglio un contratto non stabile. È una dinamica questa che vale per molti paesi occidentali, nel senso che gli Stati Uniti in primis hanno visto un grosso aumento degli occupati, ma non un pari aumento della qualità, diciamo, di questa occupazione. Comunque 59.000 occupati in più a luglio, 294.000 in più in un anno rispetto all'anno prima, scusatemi, e quindi sono quasi 300.000 occupati in più rispetto all'agosto del 2016. Il tasso di disoccupazione, per i motivi che spiegavo, è salito sia sulla disoccupazione generale 11,3% che su quella giovanile 35,5%. Ci sono stati, l'INPS poi ha diffuso i dati nei primi sei mesi dell'anno, quindi fino a giugno, 822.000 nuovi contratti stabili, che è un dato in calo rispetto allo stesso periodo del 2016, ma quando c'era ancora la coda dei benefici, diciamo, della decontribuzione, per quanto ridotta. E la differenza tra nuovi assunti a tempo indeterminato e cessazione di lavoro resta ancora positiva per 32.000 unità, 32.460 unità. Il ministro dell'economia Padoan, unendo i dati sul PIL, l'andamento della fiducia di consumatori e imprese e i dati di oggi sull'occupazione, dice: la ripresa c'è, ormai ce lo dicono tutti, il governo resta al lavoro. C'è la ripresa, lo dicono tutti i dati, dal PIL ai servizi, all'occupazione oggi, alla fiducia, quindi si sta consolidando un quadro di ripresa che da ciclica deve diventare strutturale, e il governo continua a lavorare in questo senso. Di questo tema parleremo anche delle pensioni, della previdenza, perché è oggetto del Sole 24 Ore oggi l'anticipazione che il governo stia preparando il piano per le pensioni future delle giovani generazioni, e i destinatari sono praticamente i giovani che rientrano interamente nel sistema contributivo, cioè quelli che hanno iniziato a versare i contributi a partire da gennaio del 96 e quando sono alle prese con carriere discontinue. Ne parleremo perché c'è un'indicazione portata dal governo al tavolo con i sindacati che queste persone potrebbero andare in pensione prima dei 70 anni e con 20 anni di contributi, avendo maturato un trattamento pari a 1,2 volte l'assegno sociale invece che 1,5. Che cosa vuol dire? La soglia verrebbe ridotta e quei giovani a quel punto non più giovani chiaramente, ma andrebbero in pensione con un assegno minimo di circa 650-680 euro, perché verrebbe aumentata anche la cumulabilità tra assegno sociale e pensione contributiva. È un'ipotesi di lavoro, di trattativa con i sindacati, ne parleremo più avanti. Per quello che riguarda la borsa, invece, fermo restando che oggi non si registrano tensioni di carattere internazionale, Milano è assolutamente in linea con le altre borse europee, più 0,80%, Parigi più 0,75%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,80%, Dow Jones più 0,20%. L'euro sta ritracciando, cioè sempre relativamente forte, ma è a quota 1,1875, quindi è sceso anche sotto quota 1,19. I titoli, Campari da questo punto di vista perde lo 0,70, Enel lo 0,30, Ferrari lo 0,20, bene invece, molto bene, Saipem più 6,45, Exor più 4%, ST Microelectronics più 2,90, Buzzi Unicem più 2,30, Fiat Chrysler più 2%, Case New Holland più 2, come Telecom Italia l'1,5 lo guadagna Mediobanca e A2A, ma anche Luxottica e Recordati, e poi Moncler più 1,30, Intesa San Paolo più 1, come Leonardo ex Finmeccanica e Fineco Bank. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Allora, dicevamo dell'euro, il petrolio invece oggi è cresciuto a 47 dollari al barile, l'oro resta stabile a 1300, però non scende sotto la soglia, diciamo, psicologica guadagnata inizio settimana dei 1300 dollari l'once, a 1312 dollari l'oncia. Tra l'altro arrivano notizie dagli Stati Uniti, l'uragano Harvey, con i costi che sta avendo, sono 160 miliardi di dollari più o meno calcolati, è diciamo il disastro naturale più costoso per ora della storia degli Stati Uniti. Cominciano a far sentire, devo dire purtroppo anche in Italia, gli effetti dopo la chiusura delle raffinerie statunitensi. Dici, cosa c'entra l'Italia? Beh, l'uragano ha colpito Texas e Louisiana, ha costretto la chiusura di diverse raffinerie, facendo di fatto aumentare le quotazioni dei prodotti petroliferi anche nel Mediterraneo. Si registrano aumenti di un centesimo su benzina e diesel da parte di Total, Erge e Kuwait, che hanno portato nella modalità self la benzina a 1,497 euro, e comunque diversi marchi vanno da 1,493 a 1,525 euro, più basso invece i distributori cosiddetti no logo a 1,474 euro, prezzo medio praticato per il diesel 1,343 euro. E l'uragano Harvey sta avendo un impatto, potrebbe avere un impatto molto forte anche sull'andamento delle immatricolazioni, delle vendite di auto negli Stati Uniti. Perché? Perché secondo quanto riporta il quotidiano Detroit News, potrebbe aver distrutto fra i 300.000 e i 500.000 veicoli tra automobili e camion leggeri, light trucks, ben oltre a quanto fatto nel 2012 dall'uragano Sandy, che aveva obbligato comunque a sostituire 250.000 veicoli. Scrive appunto Detroit News nel suo rapporto che nella sola Houston potrebbero essere finiti sott'acqua 300.000 mezzi, ossia il mercato automotive dell'intera area metropolitana, che ha registrato 35.000 immatricolazioni. Perché un dato così forte? Perché, lo dico per inciso, il Texas è da solo, fa il 9% di tutte le vendite auto a privati negli Stati Uniti e addirittura il 14% dei pick-up full size, cioè i modelli di punta sia di Ford che di Fiat Chrysler che di General Motors, Toyota. Quindi è lo Stato americano che ha il maggior peso quanto a immatricolazione di auto e pick-up full size. Ah, Ancora si tiene d'occhio negli Stati Uniti quello che sta capitando invece all'impianto chimico dell'Arkema nella cittadina di Crosby, alle porte di Houston, perché due esplosioni hanno colpito l'impianto chimico, sostanze chimiche sono fuoriuscite, causando ricovero in ospedale di un poliziotto. Per ora sembra la situazione relativamente circoscritta, 9 persone si sono presentate in ospedale per accertamenti. Andiamo all'Europa. Si parlerà molto di Europa anche da domani a Cernobbio, workshop Ambrosetti, avremo anche un approfondimento oggi, poi domani Focus Economia sarà come ogni anno in diretta da Cernobbio, se ne parlerà molto perché sabato saranno presenti molti commissari europei a Cernobbio, tra cui vi sarà il capo negoziatore dell'Unione Europea Michel Barnier per quello che riguarda la Brexit. Barnier oggi ha detto dobbiamo trovare una soluzione sui conti dell'Unione Europea al di là della flessibilità e dell'immaginazione, perché ho il mandato di trovare una risposta che rassicuri tutti, e ha confermato che questo terzo round di negoziazioni tra Unione Europea e Gran Bretagna vede proprio nei costi quello che deve pagare la Gran Bretagna la parte più spinosa. E poi Moscovici ha detto occorre rivedere le regole sugli investimenti esteri in Europa, questo non c'entra con la Brexit, la Commissione Europea presenterà iniziative concrete nel futuro. È un'iniziativa sollecitata a più riprese da Italia, Francia e Germania per avere maggiore controllo sugli investimenti esteri in Unione Europea, in particolare quelli provenienti dalla Cina. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Partiamo subito col primo tema di approfondimento, i dati Istat. Come sempre i dati Istat sul lavoro necessitano di una lunga, in parte l'ho già fatta, spero, spiegazione per capire perché sale l'occupazione, va a record dal 2008 e cresce però anche la disoccupazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Gli occupati in più, ripeto, 294.000 su base annua, ma crescono anche i disoccupati, più 61.000. Si spiega questo dato con il calo degli inattivi, di chi non lo stava neanche cercando il lavoro. Sono 115.000 persone in meno. E alcuni di questi l'avranno trovato, altri sono finiti, diciamo, nel dato sulla disoccupazione. Cresce il tasso di occupazione, tra l'altro, in tutte le fasce di età, tranne che in quella tra i 35 e i 49 anni, che per inciso è la fascia di età di chi vi parla, che è quella più delicata. Soprattutto cresce la corsa degli over 50. Chiedo un primo commento anche su questo a chi segue da sempre i temi dei dati sull'occupazione e disoccupazione, Francesco Seghetti, direttore della Fondazione ADAPT, che è il centro studi su lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, la parte che vede crescere l'occupazione e anche la disoccupazione mi sembra spiegata con gli inattivi che calano, più persone si mettono a cercare lavoro, alcuni lo trovano, altri e aumentano gli occupati, altri no e aumentano i disoccupati. Come si spiega invece lei questo dato molto diverso nelle fasce di età? Allora, in realtà io spiegherei anche quel dato sugli inattivi, occupati e disoccupati, che segue la logica che giustamente ha illustrato, come un po' un meccanismo, una dinamica all'interno sempre della fascia degli over 50. Perché se andiamo a vedere le crescite delle altre delle fasce d'età, come giustamente diceva, crescono, ma parliamo di pochi numeri. Ad esempio, per quanto riguarda la fascia dei 15 ai 24, per cui aumenta la disoccupazione, ma aumenta anche l'occupazione a causa degli inattivi, parliamo di cambiamenti di circa 10.000 giorni. Cioè, poca roba. Sono numeri piccoli. Quindi lei ci sta dicendo che il grosso di questo aumento degli occupati, questa riduzione degli inattivi, e che ha portato alcuni a trovare lavoro e altri invece a risultati disoccupati, si colloca nella fascia over 50, sopra i 50 anni. Sì, perché pensiamo soltanto agli inattivi, negli over 50 sono stati 90.000 in meno, che sui 115 sono quasi tutti. Quindi si gioca una battaglia all'interno di quella. Perché dico battaglia? Perché il dato interessante su quella fascia d'età è che a fronte di un aumento degli occupati c'è un fortissimo aumento dei disoccupati. L'Istat calcola che, depurato dall'effetto demografico, ossia da quanta gente è entrata in questa fascia d'età, che è un dato importante visto che la nostra popolazione continua ad invecchiare, i disoccupati over 50 sono il 15% in più a luglio, quindi un numero altissimo. E come si spiega questo? Si spiega col fatto che gli occupati continuano ad aumentare a causa della riforma Fornero, quindi a causa dell'allungamento del periodo lavorativo, dello spostamento dell'età pensionabile. Gli inattivi diminuiscono perché quelli che sarebbero dovuti andare in pensione e quindi statisticamente risultare inattivi, perché i pensionati risultano inattivi secondo l'Istat, non vanno in pensione e quindi diciamo che quel gruppo storico di inattivi in qualche modo diminuisce e andrà avanti a diminuire nei prossimi anni, perché se pensiamo che prima della Fornero c'era tanta gente che poteva andare in pensione a 55 anni, adesso magari andrà a 62, 63, 64, l'effetto andrà avanti ancora per un po', ma allo stesso tempo chi perde lavoro per gli over 50 fatica tantissimo a ritrovarlo. Quindi l'aumento degli occupati over 50 non è un dato economico, è un dato, è una conseguenza della legislativa amministrativa, non la conseguenza di una domanda da parte delle imprese per i lavoratori over 50. E oltretutto, con le nuove regole sulla cassa integrazione, tante aziende che sono ancora in crisi vedono esaurirsi la cassa integrazione, quindi i lavoratori, soprattutto quelli più maturi, restano senza lavoro. Quindi c'è questa, è importantissimo quello che lei ci sta dicendo, perché lo dico con massimo rispetto anche al governo che festeggia, allora un conto è festeggiare essere contenti del dato sul PIL, perché quello è un dato statistico, o sulla fiducia. Quando tu esulti sull'occupazione e lei ci sta dicendo invece che attenzione, sì, se prendiamo 100 tutti i potenziali lavoratori italiani, notiamo che il numero di persone che lavora è il più alto dal 2008. Il problema, se posso aggiungere con una battuta, è che lavorano sempre i soliti, cioè se si è allungata l'età pensionabile vuol dire che qualcuno che prima andava in pensione a 56, 58 continua a restare al lavoro, risulta occupato quindi, ma non si è creata occupazione né per una grande domanda interna delle imprese di qualunque livello, né nelle fasce, diciamo, non toccate dalla Fornero, dall'allungamento dell'età pensionabile. Ho capito bene? Sì, sì, confermo che dal punto di vista complessivo dei conti economici, dal punto di vista fiscale e contributivo, è comunque positivo, perché abbiamo più persone che pagano i contributi, più persone che pagano le tasse, la tassazione da lavoro, quindi questo va bene. Però diciamo che in questo momento è difficile dire che questa sia una dinamica mossa, appunto, come diceva lei, dalla domanda delle imprese. Ovvio, nell'ultimo periodo c'è un aumento di occupati che in piccole unità incide anche sulle altre fasce, ma ovvio, mettiamo giù qualche numero: nella fascia 25-34 anni questo mese 7.000 occupati in più, in quella dai 15 ai 24 12.000, in quella dai 35-49, come diceva lei, 20.000 in meno, dagli over 50 60.000 in più. Ovvio che è anche la popolazione che invecchia, ma con ADAP abbiamo fatto una simulazione depurando da tutto l'elemento demografico. Negli ultimi 4 anni risulta che il 51% degli occupati in più è dato agli over 50, quindi su 4 fasce d'età una sola si prende il 51%, questo è molto indicativo. Allora, questo, insomma, per usare una battuta ancora più chiara, ammesso mio padre non è in pensione, ma sarebbe come dire che il padre continua a lavorare perché per effetto della Fornero resta al lavoro più a lungo, il problema è che non sta ancora lavorando il figlio. E il padre lavora per il figlio e quindi... Sì, dal punto di vista aggregato tu dici... È complesso. No, dal punto di vista aggregato dici, beh, comunque... invece che avere il figlio disoccupato e il padre che non lavora più, almeno lavora il padre. Però da un punto di vista sociale è un problema, è un po' diverso, perché tu non puoi dire che se il padre lavora 2 anni in più è come se il figlio avesse lavorato negli ultimi 2 anni, perché il lavoro non è, è sicuramente anche la parte economica, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto contributivo e quant'altro. Certo. Per cui non è solo il potere d'acquisto che ti dà. Uno potrebbe dire, vabbè, allora il padre può girare, ma a parte che non funziona così, perché bisogna vedere anche il rapporto tra padre e figlio, tra figlio e padre. Ma un conto è dire a livello aggregato, comunque il numero di occupati è il più alto dal 2008, poi vai a vedere, lavorano sempre i soliti, non riusciamo, se non con numeri appunto che lei citava di qualche migliaio di unità, a portare dentro chi deve iniziare a lavorare e si spera a continuare a lavorare, non chi già ha lavorato per 20-30 anni e continua a farlo, come effetto anche della Fornero. Sul fronte dei dati invece sui contratti stabili, c'è ancora un saldo positivo di 32.000 unità, tra gli 822.000, questo è il dato INPS nei primi 6 mesi, contratti stabili attivati, e invece le cessazioni che sono state 790.000. Si raffronta chiaramente con un periodo in cui c'erano ancora gli sgravi contributivi. Vi aspettate che il dato continui invece a peggiorare? Allora, ahimè, sembrerebbe di sì, nel senso che al momento sta tenendo, perché abbiamo, c'è stato qualche mese come gennaio ed aprile che hanno un di mesi abbastanza particolari, uno all'inizio dell'anno, uno all'inizio di quella che può essere assunzioni per la stagione estiva, ma poi abbiamo visto come in realtà ci sono cali, ad esempio il mese di giugno, per cui, a cui fanno riferimento questi dati, il numero è negativo di quasi 13.000 unità, quindi per come è la struttura, poi con tutti gli annunci che si stanno facendo su un'ipotetica nuova decontribuzione a partire da gennaio 2018, credo che le imprese, se già avevano qualche dubbio ad assumere a tempo indeterminato senza incentivi, con la promessa di una decontribuzione che poi è concentrata sui giovani, però comunque è già qualcosa, fino alla fine dell'anno saranno abbastanza fermi. Un'ultima domanda, ci chiedono gli ascoltatori se possiamo cercare di capire perché comunque cresca il tasso di occupazione, soprattutto su chi è più di 50 anni, con numeri più bassi, come diceva lei, per i giovani, ma è invece ferma sui 35-49 anni, che uno potrebbe dire al ragionamento, beh, anche loro potrebbero, diciamo, quando uno ha 47, 48, 49, non è che stia già pensando alla pensione, però sono figure professionali che già lavorano da un po', non è l'ingresso nel mercato del lavoro come vale invece per i giovani. No, non ho capito, chiede la disoccupazione o l'occupazione? No, l'occupazione, che non cresce praticamente nella fascia 35-49. Anche in questo io penso che si possa spiegare per il fatto che appunto ormai è gente che è entrata nel mercato del lavoro e nella fase precedente non c'è una grandissima stabilità. Io penso che il nodo principale sia l'instabilità e la grande difficoltà di trovare un percorso tra i 25 e i 34, e che questo poi incida, diciamo, nell'ingresso a una fase professionale di maturità. E l'altro dato è che questo dato qui dimostra che non ci sono delle grandi assunzioni da parte delle imprese, perché quella è una fascia d'età che potrebbe essere premiata in realtà, perché un'azienda magari non vuole uno troppo giovane, perché non vuole formarlo, vuole prendere qualcuno già maturo. Anche il fatto che in questa fascia qui, in cui uno dovrebbe avere, diciamo, delle competenze costruite, il fatto che non avvengano assunzioni in quella fascia significa che il grosso dell'aumento occupazionale, come dicevamo prima, è dato dalla permanenza in più nel mercato del lavoro. Allora, grazie anche per la chiarezza a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, appunto il centro studi su lavoro e occupazione fondato da Marco Biagi. Andiamo su meteo e pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. ...17.39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa e poi ai temi del workshop Ambrosetti, da domani in poi mezzo governo, moltissimi commissari europei, si parlerà anche di sicurezza. Vorrei capire il succo, per carità, oggi su Sole 24 Ore ha spiegato molto bene il piano che il governo sta preparando e vuole presentare ai sindacati per le pensioni future, visto che parlavamo di giovani occupati e disoccupati, e lo vorrei fare con Marco Rogari del Sole 24 Ore. Buonasera Marco. Buonasera agli ascoltatori. Senti, come si dice in linguaggio giornalistico, il titolo, perché quando parliamo di contributi, qui si parla di chi avrà stati contributi a partire da gennaio del 96 e potrebbe andare in pensione prima dei 70 anni con 20 anni di contributi, avendo maturato un trattamento pari a 1,2 volte l'assegno sociale invece dell'attuale 1,5 volte, ma il titolo, diciamo, di quello che il governo vuole presentare ai sindacati qual è? Che si cerca di puntellare le pensioni per i giovani, nel senso i giovani rischiano di andare in pensione tardi, come hai detto tu, o di avere una pensione bassissima, e quindi è il primo passo verso la pensione minima di garanzia di cui tanto si è parlato e che insomma potrebbe essere, tra virgolette, anche funzionale magari per qualcuno in chiave preelettorale. E questo che cosa prevederebbe? Cioè, o meglio, quello che tu hai spiegato come obiettivo, sì, anche la parte appunto preelettorale, però come si attuerebbe? Cioè, attraverso il coefficiente sull'assegno sociale? Ci sono due punti. Uno è quello della soglia di accesso. Oggi, dopo le regole della Fornero, come è stato detto, non si può un giovane che non ha o maturato contributi per avere una pensione di almeno 1-5 volte il minimo non potrebbe andare con il requisito della pensione normale, cioè 66 anni e 7 mesi attualmente, anche se dovesse aver già 20 anni di contributi versati. Questo era il primo problema, e quindi è stato deciso di abbassare l'asticella, si è scesi a 1-2 volte il minimo. E questo vorrebbe dire che per poter accedere alla pensione bisognerebbe avere un importo, diciamo così, maturato di 537 euro. A quel punto si potrebbe andare in pensione senza aspettare i 70 anni, quindi 4-5 anni prima, con i requisiti di oggi, tra 20-30 anni, quando i giovani contributivi andranno in pensione, si sarà arrivati a 73, probabilmente 72-73 anni. Questo era il primo problema. Il secondo era appunto garantire ai giovani con carriere discontinue, un patto di equità, una pensione dignitosa, perché insomma, essendo interamente contributivi, avrebbero potuto beneficiare di pensioni di anche meno di 500 euro. E questo è stato fatto ripristinando, diciamo, uno strumento della vecchia riforma Dini, che era la cumulabilità con l'assegno sociale, perché la Fornero aveva sostanzialmente bloccato questa possibilità, che all'epoca era stata prevista per un terzo della pensione sociale, cioè si poteva cumulare il 30% della pensione sociale con la pensione normale. Ora si è saliti al 50% proprio con l'obiettivo di arrivare a un assegno, maggiorazioni poi sociali comprese, che può oscillare tra i 650 e i 680 euro. Ma non si tratta di una pensione di garanzia vera, perché in questo caso la pensione di garanzia vera prevederebbe un trattamento minimo di 650 euro, secondo una proposta, ad esempio, che è stata fatta da uno dei consiglieri economici, Stefano Patriarca del Palazzo Chigi, che poi dovrebbe salire dopo i 20 anni di 30 euro per ogni anno in più di contribuzione maturata. Grazie a Marco Rogari, anche qui sintetico e chiaro. Andiamo sulla borsa, oggi dovete accontentarvi di me, borsa devo dire con qualche titolo in evidenza, penso a Saipem ed Exor, ma non grandi spunti di carattere internazionale, ogni tanto si può anche dire per fortuna. Saipem più 5,77%, c'è un recupero un po' del dollaro, quindi i titoli che ne erano stati più penalizzati si va a comprare questi. Exor più 4,36%, ST Microelectronics più 2,70%, Fiat Chrysler più 2,20%. E invece poi bene anche Case New Holland più ne 80, Telecom più ne 70, Moncler più ne 60, Prismian più ne 40, come A2A, Luxottica pure, e anche Mediobanc guadagna l'1,40% su Saipem. Ha annunciato oggi il gruppo nuovi contratti in Ghana ed Angola per un valore di 370 milioni di dollari. Il motivo per cui Exor, le controllate Fiat e CNH vanno bene, invece si chiama un report di Goldman Sachs che è ottimista su proprio su Fiat Chrysler. Per il resto devo dire che di negativo c'è molto poco oggi in borsa, e mi riferisco a da un lato Campari meno 0,80, Poste meno 0,60, Italgas pure, Unipol meno 0,44%. Andiamo sul traffico e poi i temi che verranno trattati a partire da domani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Allora, ultima parte di Focus Economia. Dicevo, continuiamo a occuparci di scenari economici e dello stato della ripresa, con tutti questi chiari e scuri, anche perché saranno al centro del forum organizzato come ogni anno dal workshop Ambrosetti, che si apre, dicevo, come ogni anno, primo weekend utile del mese, a Cernobbio. Appunto, venerdì, sabato e domenica, come ogni anno, ricordo la presenza di Radio 24 in diretta venerdì e poi anche venerdì, sabato e domenica con i GR, le interviste. Dicevo, come ogni anno, la stagione, l'estate finisce per la comunità economico-finanziaria, anche devo dire meteorologicamente, viste le previsioni temporali, ma l'estate finisce con il workshop Ambrosetti a Cernobbio, 43esima edizione. Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, come sempre il venerdì è la giornata dedicata ai grandi temi di carattere internazionale, non necessariamente solo economici. Sabato invece i temi europei, sarà presente il negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier, oltre che il commissario europeo agli affari economico monetari Pierre Moscovici, la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager e il segretario generale dell'OCSE Angel Gurria. Tra sabato e domenica poi la parte politica italiana, e quindi il ministro Alfano sarà in realtà venerdì, ma il premier Gentiloni, il ministro Piercarlo Padoan, i ministri Carlo Calenda, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e poi anche l'opposizione, attesi il leader del 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Domenica, tra l'altro, nell'ultima sessione dei lavori vi sarà anche la presenza del presidente Confindustria Vincenzo Boccia. Un workshop Ambrosetti che si apre, diciamo, con ulteriori notizie in questa settimana di un rafforzamento dell'attività produttiva. Lo so già prima che scriviate, ce n'è di strada da fare, però anche Moody's ha detto, ha confermato, come tantissimi altri istituti in questi ultimi due mesi, una revisione a rialzo del PIL non solo italiano, vale anche per la Germania, per la Francia, in generale per l'Europa, ma anche per l'Italia, dallo 0,8% all'1,3%. Ormai l'1,3% è più o meno la stima su cui tutti si collocano. Non è ancora abbastanza, ma siamo a un 40% in più rispetto allo 0,8 stimato a fine 2016. Così come si conferma non solo in Italia, ma anche in Italia, che la fiducia economica degli operatori, imprese in primo luogo, è ai livelli più alti da 10 anni. Nel caso specifico l'Italia, dato Istat, è tornata al livello che non vedeva dal 2007. Ma anche la fiducia economica misurata dalla Commissione europea è tornata appunto al livello più alto da 10 anni a questa parte. È interessante notare che L'indice sulla fiducia economica si è cresciuto soprattutto in Italia, più 3,6 punti, in Francia e in Spagna. Si è leggermente indebolito in Germania, ma era già molto alto, e in Olanda. Allora, al di là del meteo, che non dovrebbe essere clemente, mi sembra che invece le condizioni atmosferiche dell'economia italiana siano in miglioramento, diciamo, da un nuvoloso a un variabile, non so se con piovaschi, ma un variabile con qualche schiarita. Giro la domanda, diciamo, l'esempio meteorologico a chi organizza, come ogni anno, il workshop Ambrosetti, ossia Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House Ambrosetti. Buonasera De Molli. Buonasera dottor Barisoni, mi fa molto piacere essere con lei. Allora, questo prima della domanda, adesso vediamo se anche dopo la domanda. Il meteo economico sta oggettivamente, pur avendo ancora molta variabilità, sta andando su uno scenario più positivo rispetto alle attese nel 2017. Come questo interverrà, un dato così congiunturale, interverrà in un appuntamento come il vostro, che già dal titolo si occupa però di scenari? Sì, ma usando la sua metafora del tempo, direi che abbiamo chiuso gli ombrelli, li abbiamo depositati nel portaombrelli in attesa degli eventi. Anche l'Ambrosetti Club Economic Indicator, che da 4 anni misura la temperatura dell'economia italiana attraverso la survey che somministriamo a oltre 350 capi azienda, conferma e dimostra che siamo verso il bello. Siamo verso il bello nel senso che nel nostro indicatore, che da 4 anni ogni trimestre va a stabilire sentiment, propensione agli investimenti, propensione ad occupare, anche nel nostro caso questo indicatore è orientato a livelli positivi e in crescita, una crescita moderata ma comunque una crescita. Come ho scritto anche in un mio recente articolo proprio sul Sole, e come dico nella mia prolusione all'apertura dei lavori, noi stiamo riprendendo a correre, l'ha ricordato anche lei prima, 1,5% di previsione di crescita, che è una buona notizia perché è più veloce di ieri, ma non è sufficiente correre più di ieri, dobbiamo correre più degli altri se vogliamo migliorare la nostra capacità competitiva, ed è proprio di questo che si dovrà a lungo e a fondo parlare per stabilire il nostro percorso distintivo di crescita. Ecco, dottor De Molli, non sfugge nessuno che rispetto a altri anni, noi da ormai non so 15 anni almeno seguiamo con le dirette del programma e poi con i nostri inviati i lavori del workshop Ambrosetti, rispetto agli ultimi anni non sfugge nessuno, dicevo, che questo appuntamento si connota anche per una forte variabile politica oltre che economica sul doppio fronte Brexit, perché c'è chi dice che la Gran Bretagna è in pieno pantano Brexit, ma comunque avete invitato il commissario, il negoziatore europeo, Brexit, elezioni tedesche il cui esito dovrebbe essere abbastanza scontato, però si terranno comunque nell'ultima settimana di settembre, e soprattutto elezioni italiane, perché qui non è più un se o un ma, arriveremo nella primavera dell'anno prossimo alle elezioni. Sarà un Cernobbio con una componente politica sia sul fronte europeo che sul fronte italiano più forte? Sì, è più forte che mai da questo punto di vista, sia per la presenza molto rilevante europea, come giustamente lei ricordava, non dimentichiamoci l'apertura dell'agenda sull'Europa che verrà fatta dal primo vicepresidente Timmermans, non dimentichiamoci la commissaria Vestager che passerà alla storia per essere stato il commissario europeo che ha inflitto la multa più pesante mai inflitta a una multinazionale americana, 2,4 miliardi di dollari a Google un mese fa, solo per citarne alcuni. Ma all'interno dei dibattiti sull'Europa che diciamo abbiamo orchestrato su un ambito più geopolitico, l'Europa che vogliamo, e su un ambito economico, il futuro dell'euro, e su un ambito strategico industriale, competitività e crescita. Sull'ambito diciamo più politico, l'Europa che vogliamo, credo che potrebbe passare alla storia il dibattito che faremo tra il commissario Oettinger, Mario Monti e Wilders, il leader politico europeo olandese del partito estremista anti-europeo, dove ci potrebbero essere molte scintille, molte frizioni. Il giorno? Questo sarà sabato mattina. Sabato. Contesto dell'agenda per l'Italia. E, quindi anche proprio per rimarcare il fatto che The European House Ambrosetti, come primo think tank privato italiano nella top 10 europea, vuole essere totalmente indipendente e non schierato, quindi non discutiamo quando lei dice sarà molto politico, sì, ma non necessariamente partitico. Un altro elemento di riflessione non scontato, non banale, lo faremo insieme al ministro dell'energia della presidenza Obama, Moniz, colui il quale firmò il protocollo sulla tutela dell'ambiente della COP21 a Parigi, che venne disconosciuta poi da Trump qualche mese fa. E anche da questo punto di vista gli aspetti della sostenibilità, del climate change, della tenuta dello sviluppo sostenibile sarà un altro elemento non banale. E per rimarcare l'enorme livello di innovazione e di internazionalizzazione dell'iniziativa proprio quest'anno, che sarà un'edizione record, voglio anche ricordare la presenza, ed è la prima volta nella storia che succede, del capo dell'intelligence del governo Trump, che sarà appunto presente, che rappresenterà il governo dell'amministrazione americana in un momento estremamente delicato negli equilibri geopolitici internazionali. Ci aggiornerà sul tema Nord Corea e ci aggiornerà sulla lotta al terrore, che evidentemente non è solo una lotta di quartiere della città di Milano, è una lotta che deve coinvolgere le intelligence del pianeta. Così come degno di menzione altre due o tre cose, la presenza di John McCain, reduce anche da un'operazione molto seria, e le delegazioni del governo russo e del governo di Singapore, anche coerentemente con sviluppi internazionali importanti di The European House Ambrosetti. Allora, buon lavoro a tutti, tra l'altro importante, quando arriverà il capo della sicurezza americana sarà sabato o domenica, questo lo dico anche per interesse giornalistico nostro. Lui sarà sul programma di sabato, ma arriverà con noi già da giovedì sera, quindi starà poi tutti e tre i giorni. Allora, seguiremo, ripeto, i lavori in diretta con Focus Economia venerdì e poi con gli aggiornamenti nei nostri GR24. Grazie intanto, in bocca al lupo come sempre in questi casi, a Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House Ambrosetti. Grazie a lei, ne abbiamo bisogno. E invece è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo appunto in diretta dal workshop Ambrosetti di Cernobbio domani e basta, perché poi dopodomani è sabato, dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.